seguo lei tutte le sere, ma non solo seguo lei, seguo tutti, e mi meraviglio che non... Io vorrei che lei mi aiutasse a chiedere ad altri... Sì. Ogni tanto, cosa ne pensi di cacciare il leader dalla sinistra? Ma guardi, vogliamo vedere cosa succede. Casadei, lei perché è così... secondo me la strada è questa, ma non lo capiscono. Ma perché non lo vogliono? Perché forse non è un anti-berlusconiano, non so, perché... Ma no, perché è un po' fuori... di Pietro, non so. È un po' fuori dai giochi romani, diciamo. No, è un po' fuori da questi giochi. Sì, ma lei cosa ne pensa? No, perché ma io sono favorevolissimo, io sono favorevolissimo, Casadei, sono allora, favorevolissimo. Mi può aiutare a chiedere a qualcuno, a porre questa ma chiediamo allo stesso, Cacciari, noi gli giriamo questa sua preghiera, perché lei non si candida a essere il leader del Partito Democratico? Un momento, però se Cacciari dice che non si candida, giusto, lui sa come... come bolle la pentola in sinistra, siamo noi che dobbiamo cercare di far... Vabbè, adesso, cioè, adesso mi faccio venire un'idea di serie B. No, certo, adesso mi faccio venire un'idea per cercare... Io proprio credo che se lei comincia a porre questa domanda smuoviamo delle acque, sono sicuro cerchiamo di smuovere. Dovrà rispondere, certo, quali sono i suoi difetti, quali sono i suoi deboli, ma io lo trovo l'uomo più forte, insomma.